Sezione 28esima della Divina Commedia Il Paradiso di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pier. Canto 28esimo. Poscia che incontro alla vita presente dei miseri mortali aperse il vero, quella che in paradisa la mia mente, come in specchio fiamma di dopiero vede colui che se n'alluma dietro, prima che l'abbia in vista od in pensiero, e se rivolve per veder se il vetro gli dice il vero, e vede che il s'accorda con esso come nota con suo metro. Così la mia memoria si ricorda ch'io feci, riguardando ne begli occhi, onde a pigliarmi fece amor la corda. E com'io mi rivolsi, e furon tocchi li miei da ciò che pare in quel volume, quandunque nel suo giro ben s'adocchi, un punto vidi che raggiava lume acuto sì, che il viso ch'egli affuoca chiuder conviensi per lo forte acume. E quale stella par quinci più poca, parrebbe luna locata con esso, come stella con stella si colloca. Forse, cotanto quanto pare appresso, alo cinger la luce che il dipigne, quando il vapor che il porta più è spesso, distante, intorno al punto, un cerchio d'igne si girava sì ratto, ch'avria vinto quel moto che piuttosto il mondo cigne. E questo era d'un altro circuncinto, e quel dal terzo, e il terzo poi dal quarto, dal quinto il quarto, e poi dal sesto il quinto. Sopra seguiva il settimo, si sparto già di larghezza, che il messo di uno intero a contenerlo sarebbe arto. Così l'ottavo e il nono, e ciascheduno più tardo si movea, secondo che era in numero distante più dall'uno. E quello avea la fiamma più sincera, cui men distava la favilla pura, credo perocché più di lei s'invera. La donna mia, che mi vedeva in cura forte sospeso, disse: «Da quel punto dipende il cielo e tutta la natura. Mira quel cerchio che più gli è congiunto, e sappi che il suo muovere è sì tosto per l'affocato amore ond'egli è punto». Ed io a lei: «Se il mondo fosse posto con l'ordine che io veggio in quelle ruote, sazio m'avrebbe ciò che m'è proposto. Ma nel mondo sensibile si puote veder le cose tanto più divine quant'elle son dal centro più remote. Onde, se il mio disio dee aver fine in questo miro ed angelico templo, che solo amore e luce ha per confine, udir conviemmi ancor come l'esemplo e l'esemplare non vanno d'un modo, che io per me indarno a ciò contemplo. Se li tuoi diti non sono a tal nodo sufficienti, non è maraviglia, tanto per non tentare fatto sodo». Così la donna mia. Poi disse: «Piglia quel ch'io ti dicerò, se vuoi saziarti, ed intorno da esso t'assottiglia. Li cerchi corporali enno ampie d'arti, secondo il più e il men della virtute, che si distende per tutte lor parti. Maggior bontà vuol far maggior salute maggior corpo cape, se gli ha le parti ugualmente compiute. Dunque, costui che tutto quanto rape l'alto universo seco, corrisponde al cerchio che più ama e che più sape. Perché, se tu alla virtù circonde la tua misura, non alla parvenza delle sostanze che t'appaion tonde, tu vederai mirabil convenenza di maggio a piue e di minore a meno in ciascun cielo a sua intelligenza. Come rimane splendido e sereno l'emisfero dell'aere quando soffia borea dalla guancia ond'è più leno, perché si purga e risolve la roffia che pria turbava, sì che il ciel ne ride con le bellezze d'ogni sua parroffia. Così fec'io, poi che mi provvide la donna mia nel suo risponder chiaro, e come stella in cielo il ver si vide. E poi che le parole sue ristaro, non altrimenti ferro disfavilla che bolle, come i cerchi sfavillaro. Lo incendio lor seguiva ogni scintilla, ed eran tante che il numero loro più che il doppiar degli scacchi s'immilla. Io sentiva osannar di coro in coro, al punto fisso che gli tiene agli ubi e terrà sempre, nei quai sempre foro. E quella, che vedeva i pensier dubi nella mia mente, disse: «I cerchi primi t'hanno mostrato serafi e cherubi, così veloci seguono i suoi vimi per somigliarsi al punto quanto ponno, e possono quanto a veder non sublimi. Quegli altri amor che d'intorno gli vonno si chiaman troni del divino aspetto, perché il primo ternaro terminonno, e dei saper che tutti hanno diletto, quanto la sua veduta si profonda nel vero, in che si queta ogni intelletto. Quinci si può veder come si fonda l'esser beato nell'atto che vede, non in quel ch'ama, che poscia seconda. E del vedere è misura mercede che grazia partorisce e buona voglia, così di grado in grado si procede. L'altro ternaro che così germoglia in questa primavera sempiterna, che notturno ariete non dispoglia, perpetualmente osanna sverna con tre melode che suonano in tre ordini di letizia onde s'interna. In essa gerarchia son le tre dee, prima dominazioni e poi virtudi, l'ordine terzo di podestà di ee, poscia nei due penultimi tripudi principati ed arcangeli si girano, l'ultimo è tutto d'angelici ludi. Questi ordini di su tutti s'ammirano e di giù vincon sì che verso il Dio tutti tirati sono e tutti tirano. E Dionisio con tanto disio a contemplar questi ordini si mise che li nomò e distinse com'io. Ma Gregorio da lui poi si divise, onde, sì tosto come gli occhi aperse in questo ciel, di sé medesmo rise. E se tanto segreto ver profferse mortale in terra, non voglio ch'ammiri, che chi vide quassù gliel discoverse, con altro assai del ver di questi giri. Fine del canto 28.